Giosuè, figlio di Nun, fu forte nella guerra e successe a Mosè nell'ufficio profetico. È stato degno del nome che portava come grande salvatore del popolo eletto. Egli puniva i nemici che si ribellavano per far avere ad Israele la sua eredità. Quanto era splendido quando alzava le sue mani per tendere la spada contro le città. Chi è stato come lui prima di lui? Egli ha combattuto infatti le guerre del Signore. Non è stato trattenuto il sole con la sua mano perché un giorno diventasse due. Egli invocò l'Altissimo Onnipotente quando i nemici lo stringevano intorno. Il Signore grande l'ha esaudito con una grandinata di pietre poderose. Si buttò sul popolo nemico e nella discesa distrusse i ribelli, perché le nazioni vedessero la sua forza d'armi e comprendessero di combattere contro il Signore. Egli infatti camminava dietro all'Altissimo. Nei giorni di Mosè fece un atto di pietà. Egli e Caleb, figlio di Jefunne, s'opposero dinanzi all'assemblea per trattenere il popolo dal peccato, per stroncare l'ingiusta mormorazione. Solo loro due si sono salvati tra i 600.000 uomini per far entrare il popolo nell'eredità, nella terra in cui scorre latte e miele. Il Signore diede a Caleb una forza che gli rimase sino alla vecchiaia, quando ha invaso la montagna del paese perché restasse in eredità alla sua discendenza. Vedano così tutti i figli di Israele che è bene andare dietro al Signore. Ci sono poi i giudici, ciascuno ha il suo nome, il cui cuore non ha fornicato nell'idolatria e non si è allontanato dal Signore. Sia la loro memoria in benedizione. Che le loro ossa germoglino dalla tomba e i loro figli possano emulare le loro gesta onorate dagli uomini. Amato dal Signore e suo profeta, Samuele stabilì la monarchia ed unse principi sul suo popolo. Giudicò la comunità con la legge del Signore e così il Signore aiutò Giacobbe. Per la sua fedeltà fu riconosciuto profeta e per le sue parole si dimostrò veggente verace. Invocò il Signore Onnipotente quando i nemici gli premevano intorno col sacrificio d'un agnello da latte. Il Signore tuonò dal cielo, fece udire la sua voce con grande fragore, sbaragliò i capi dei nemici e tutti i principi dei Filistei. Prima del riposo eterno poté attestare davanti al Signore e al suo unto: niente ho preso da nessuno, neppure un paio di sandali. E nessuno poté accusarlo. Dopo che s'era addormentato, profetizzò ancora e mostrò al re la sua fine. Anche dalla terra levò la sua voce per cancellare con la profezia l'iniquità del popolo.